Oh, senti, ho dimenticato di dirti una cosa. Oh! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. No, niente, noi siamo arrivati e c'era un bordello e tipo eravamo in mezzo al corteo, casino, hanno spaccato un po' di robe così. Perché? Perché? Perché è una protesta, nel senso. La protesta, secondo te, non è violenza fine a se stessa questa? In che senso non è violenza fine a se stessa? No, è una protesta, si fa bordello. Dar fuoco a una banca, che senso ha? Minchia, ma la banca è l'emblema della ricchezza, cioè, se non do fuoco alla banca sono un coglione, minchia. Boh, io quando sono in mezzo ai disastri sono contento comunque, cioè. È una protesta, ci sta. Tu aderisci a qualche gruppo di contestazione? Boh, non lo so, quando c'è casino mi ritrovo in mezzo, faccio casino anche io, nel senso. Buonasera a tutti, come state? Si è ripreso il signorino dall'attacco di incontinenza? Eh? Signor Parenzo! Signor Parenzo! A questo signor Parenzo! Ciao, volevo dire, ma ieri sul coronavirus nessuno ha parlato contro rispetto alla patata bollente che ha fatto un casino, denunce e tutto, nessuno mai dice un cazzo. I giornalisti per bene, tutti bene, i tuoi compagni, Parenzo e Gottardo. Chi se ne frega? Ma chi se ne frega un cazzo? Allora rompono sempre i coglioni sui 49 milioni che non è vero, che sono il massimo 3, la vecchia Lega. Ma che cazzo siete lì a fare? Mettete un gigolo del MES? Ma siete corrotti proprio anche voi? Cazzo, Cruciani, minchia! Ma siete proprio ruffiani! Ma fatemi piacere, ma fatemi piacere i naufraghi, ma che cazzo dite i naufraghi, ma quanto prendete al mese, ma quanto prendete al mese a fare il talk show, dimmi cosa prendi al mese, dimmelo, dimmelo, lo voglio sapere. Ma quanto prendete al mese a fare il talk show, dimmi cosa prendi al mese, dimmelo. Dimmelo, lo voglio sapere! Dimmelo! Dimmelo, lo voglio sapere! C'è un po' di rabbia, va, però... Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dica? Pietro, ma una volta ogni tanto non puoi fare una copertina un po' tranquilla, serena, pacifica, cordiale? Questo si chiama Longoni. Questo si chiama Longoni. Come on! Se potete chiamare i carabinieri, ci sarà qualcuno all'ascolto? When I see you dance with another, when I see you dance with another, I can't bring myself not to bother. When I see you dance with another, when I see you talk to another, when I see you talk to another. Ma c'è il problema anche del budget! Ah! Ah! Come on! è incredibile, oggi ho saputo che Parenzo se l'è goduta sulle piste da sci senza nemmeno salutare le maestranze. Cioè oggi ho saputo da gente che ormai è sguinzagliata sulle piste di Madonna di Campiglio che Parenzo per tutto il giorno ha fatto avanti, indietro, eccetera, invece di salutare lì, complimentarsi o rendere omaggio ai lavoratori. Ho salutato tutti. Non salutavi nessuno. Nel ristorante dove sei andato, ovviamente un ristorante 5 stars, dove sei andato ma a pranzare. Ma ho mangiato i panini. Ma quali panini? Sì, panini. Ho mangiato i panini in quota. Cervo e polenta, cosa? Ti hanno visto tutti? Incredibile. Comunque, quali lavoratori avresti visitato oggi? quale categoria dunque, oggi hai visitato? Dunque, naturalmente arrivato sul posto nella prima giornata di lunedì abbiamo incontrato i raccoglitori di mele delle aziende agricole dimenticate. Sì. Poi? Nel secondo giorno abbiamo incontrato le maestranze che si occupano degli impianti di risalita. Sì, nel terzo giorno, vale a dire mercoledì, abbiamo incontrato naturalmente i produttori di vino. Sì. Nella giornata odierna abbiamo incontrato i grandi albergatori del Trentino Alto Adige, gente che è stata letteralmente abbandonata dalla politica, abbandonata dalla destra, e che io che sono venuto destra. Qui in missione in Trentino, io Mario Capanna, che sono venuto qui in missione in Trentino, ovviamente. Apposta. Naturalmente col vitalizio, è una regione che funziona magnificamente. L'unica cosa che non funziona, lo voglio ripetere, sono le corsie preferenziali per i deputati. Ma se lei io penso insiste... che i deputati debbano avere delle corsie preferenziali per risalire negli impianti. Esempio, oggi mi trovavo nella... oggi mi trovavo sulla cima della montagna di Madonna di Campiglio. Molto bene. Alla discesa, ci ho messo 15 minuti a scendere, ovviamente. Per risalire, 27 minuti, una fila lunghissima. Ho provato a dire: sono un deputato della Repubblica. Ancora, per il terzo giorno. Ho provato a dirlo. Naturalmente, nessuno mi ha fatto passare e mi hanno detto: mettiti in fila, cornuto. Ho detto: voi non sapete chi sono io. Sono un rappresentante delle istituzioni. E chi cazzo sono sei qui da? Per capire. E come ti hanno risposto? E loro come... hanno detto: chi se ne frega, mettiti in fila, cretino. Io ho detto una cosa, questa è l'unica cosa scandalosa, quindi fare immediatamente delle corsie preferenziali, con scritto deputati track, diremmo, ed ex deputati, con scritto accesso deputati e ex deputati nonché vitaliziati, prima, seconda e terza repubblica, è un grillismo imperante quello che dice uno vale uno, scusi, sei Cavanna, lì in cosa file, c'entra? Il peraltro le settimane bianche di febbraio sono le più affollate, quindi per favore è un tema molto serio, non è possibile che non vi siano corsie preferenziali per deputati per ed ex deputati vitaliziati prima, seconda, terza repubblica, vitaliziati ed ex vitaliziati prima, tutti. Seconda, terza, quarta repubblica. Grazie, buonasera. Buonasera. Cosa incredibile da Padova, incredibile, ovviamente. Ovviamente Alberto Gottardo, il più odiato. Eccoci. Vai. Ma sempre più sereno. Evviva. L'odio ormai mi rimbalza addosso. Non me ne gente, frega, guarda, più ti giuro, un cazzo dell'odio della gente. È avvelenata. Gli ascoltatori sono avvelenati. Io per alcune in questo 2020 avvelenate. In questo 2020 sono imperturbabile. Vabbè, non ma mi questo ti fa nulla. Onore. Però comunque in ogni caso ti assicuro e ti avverto, soprattutto perché passerai una brutta serata, che la gente è avvelenata per quello che passerai hai detto. Una brutta serata, sì, però quello non è mi sicuro. Fa, non mi passerai una brutta serata. Ti assicuro che passerai una brutta serata. Voglio iniziare però ti subito. Posso dire, ti posso sì, dire sì. Anche un'ultima cosa, poi entriamo nel merito sull'attualità politica. Una delle cose politica? Che sto leggendo in questi, cazzo ci prega in questi giorni, politica. Sto leggendo il libro meraviglioso si parla di Stefano Renzi, Massini. Figuriamoci un po'. Sì. Si parla no, di lascia Renzi. Stare Renzi, chi se ne frega. Dai, Parliamo di una roba seria. Prima di introdurre i temi dell'attualità, guarda, mi rimane la voce di Capanna. Sto leggendo il bellissimo libro di Stefano Massini, Lehman Trilogy, che è la storia della Lehman Brothers. Ti leggo solo un passaggio che ti piacerà. Sì, ti leggo solo un passaggio che ti piacerà. I passaggi dei libri mi piacciono, no, vedrai quando che ti sono piacerà. Brevi. Quando vedrai sono... che ti piacerà. La gente è un dialogo, no? Loro sono diventati poi grandi banchieri. Sì. Dice questo: la gente normale vede, usa i soldi solo per comprare. Ma chi come noi ha una banca, usa i soldi per comprare soldi, per vendere soldi, per prestare soldi, per scambiare soldi. Ed è con tutto questo che noi, mi creda, mandiamo avanti il futuro. Una cosa meravigliosa. Perché alla fine a Parenzo si sbrodola davanti ai banchieri. Sbrodola. No, la storia è la grande storia sui della soldi. Lehman Brothers. No, Parenzo, tu il libro sui soldi lo leggi con un'epopea. Una mano sola. No, ma vedi che non capisci perché... Ti vai in arrabbiamento con i soldi tu. Il fatto che tu non capisca non mi stupisce. È come il fatto che tu non capisca non mi stupisce. Come lottano tra i di loro soldi. Fermi tutti, state zitti un attimo. Vi devo introdurre di nuovo un personaggio che è tornato finalmente a produrre qualche audio su cui discutere, perché non se ne poteva più di questa assenza. È andato non so dove, lui dice in Palestina, insomma nella striscia di Gaza, quello che è. Chi è andato? Chef Rubio. Il signor Chef Rubio. Devo segnalarti una cosa. Posso segnalarti una cosa, caro David? Quando parlava, tu giustamente dici, io non è che per me non è che mi sta sul cazzo in generale. Dipende da quello che dice. Dipende da quello che dice. Però mi ricordo che quando parlava male di Salvini, tu lo esaltavi, lo Chef Rubio. Lo Chef Rubio. dubbio. Lo esaltavi, lo portavi su un palmo di mano. Me lo ricordo benissimo. Mi attaccavi. Io dicevo che era un deficiente, eccetera, eccetera. Lo attaccavo anch'io. Ma chi se ne frega? No, è un'opinione come quella di tanti. No, non è un'opinione autorevole. No, tu lo puoi. Ma che c'entra autorevole o non autorevole? Per me uno vale uno. Quello che dice Chef Rubio è uguale a quello che dice il Premier Conte. È un militante. È uguale la stessa cosa. Beh, no. Per me è uguale. È un Chef Rubio vale come. Per me l'opinione di Chef Rubio vale esattamente come quella del Presidente del Consiglio. Per me è personalmente. Io sento quello che dicono le persone, non è che faccio differenza. Chef Rubio gli piace la Palestina, gli piacciono i terroristi e rimanga lì a cucinare. Chi se ne frega, un problema suo. Se gli piacciono i terroristi, questo lo dici tu. Gli piacciono i terroristi, gli piacciono i terroristi. Allora, Chef Rubio, però in questo caso non parla di Palestina, di Gaza, eccetera. No. Dice che i raider dovrebbero bloccare le città. Senti, poi fa un paragone con Gaza, come da sentire. Vabbè, perché è la follia. Senti. Come con la Palestina, come con Gaza, siamo noi i primi colpevoli perché non facciamo abbastanza, così con loro, con i rider, dovremmo smettere di scaricare applicazioni, andare in strada e parlare con le persone e magari andare in bicicletta con loro solo per piacere. Scusami, caro Chef Rubio, dici che noi non dovremmo scaricare le applicazioni e dovremmo pedalare con loro. Ora, io non so cosa hai da fare tu tutto il giorno, probabilmente hai del tempo, per tua fortuna, hai un sacco di soldi, guadagni in un altro modo, ma la gente normale non si può permettere di pedalare insieme ai rider. Io, la gente normale scarica le applicazioni, ordina il cibo e fa girare le cazzo di economia. E dai, su, E poi dice che per farsi pagare di più i rider dovrebbero bloccare le città. Questa è una cosa molto capanniana, questa cosa qua. Devo dire la verità, Capanna sarebbe contento dello Chef Rubio, oltre che per le sue posizioni sulla Palestina, anche per bloccare le città. Un nuovo metodo per bloccare le città, i rider che bloccano tutto. Ma vaffanculo, va. Questi cazzo di rider, poi, che non c'entrano niente con lo Chef Rubio. I rider, scusa, non ho capito, non è che qualcuno ha ordinato ai rider di fare i rider? Cioè, perché no, dovrebbero. Però magari lo fanno per necessità. Lo fanno per necessità, per guadagnare. Ma no, prima questo lavoro non c'era, quello dei rider. Non esisteva. Non è un lavoro pagato poco di un lavoro che già esisteva, in cui hanno abbassato i salari. Non è semplicemente, senza l'economia virtuale non esisterebbe questo lavoro. È un nuovo lavoro. Effettivamente, dai, Cruciani, hai ragione. Anche nel 1700 gli africani non raccoglievano cotone nei campi. Poi pensa che bravi che sono stati i bianchi, esatto, britannici, grazie, che li hanno portati nel Nord America a raccogliere il cotone. Avrebbe dovuto ringraziarli. Gli ha dato un lavoro. Tu Cruciani sei nato con i miliardi in tasca. Queste cose non le capisci. Sei nato ricchissimo. Una famiglia borghese normale, di lavoratori, di gente che lavora, ha negozi in via del governo vecchio, roba da 10.000 euro al metro quadro. E poi fai il povero. È l'unica trasmissione. È l'unica trasmissione in cui ogni tanto quelli che partecipano, conduttore, pari conduttore, cioè, si insultano e tra l'altro rivelano cose che gli altri non vorrebbero che fossero rivelate. Si insultano ferocemente tra di loro. Ma io voglio che tu mi quereli. Io voglio essere il primo, speaker radiofonico che è querelato da un altro speaker radiofonico con cui lavora. I riders, ragazzi, fatevi pagare di più, altrimenti bloccate le città, perché la gente deve cominciare a muovere il culo, a non sfruttarvi, e se voi avete studiato per fare un'altra cosa o pensate di fare un'altra cosa, tornate a quella, smettete di pedalare per i potenti. Devo dirvi che a forza di ascoltarvi mi sono svegliata con una voglia incredibile di avere degli schiavi. Questa canzone è dedicata a tutti i bambini cui i genitori hanno una Jeep e che vengono portati a scuola anche quando fuori c'è una bufera di neve. Siamo con voi, ragazzi. Non tutti i genitori guidano una Jeep. Solo a febbraio, zero anticipo e zero interessi. Jeep Renegade, da 249 euro al mese. Jeep Compass, da 299 euro al mese. TAN 0 TAIG 1.31. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Info e condizioni su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica. Jeep, there's only one. La Zanzara. Sono pronte per essere munte. Sono pronte per essere munte. Stanno qua. Hai sentito che cosa ha detto Steven Ogongo? Zanzarosi, giornata difficile, eh? chiamate all'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Lo sci insieme al calcio è lo sport con il più alto tasso di infortuni. Ora Parenzo, invocare un bel crociatino per te sarebbe sperare in troppa grazia. Però uno scafoide, una spalla lussata, un polso rotto, insomma qualcosa, non sarebbe male. Parenzo, in settimana bianca a Pinzolo e guarda caso Susanna della Salaria manca da una settimana. Amico mio, sei tutti noi Parenzo! Posso escludere che Parenzo frequenti Susanna della Salaria, posso anche dire però che augurarsi un incidente sulla neve a Parenzo è di cattivo gusto, per carità. No, però fermi. No, non c'è noi problema. Ci siamo abituati al cattivo gusto, probabilmente siamo anche noi sicuramente. Sì, però ragazzi, no, ma voglio comunicare questo, che io ho già, voglio comunicare all'amico che ha lasciato questo messaggio, che io ho già un legamento, come tu forse sai, un legamento crociato anteriore del ginocchio destro rotto. Sì. Però non ti operi, qui 10 anni fa, non mi sono mai operato, quindi no, assolutamente, quindi scio con un tutore peraltro, quindi questo può interessare, una notizia di servizio. Visto che quello mi ha augurato, ho detto guardi è già accaduto, grazie, ho scio con un tutore, quindi qualora mi accadesse qualcosa il danno potrebbe essere molto grosso, quindi grazie dell'augurio. Diciamo. Ti stai toccando in mano, immagino a pelle, ti stai lavanando a piene mani. Oltre. Allora, prima di andare al delirio di Lerner di oggi, di Gad Lerner, io non so perché parlo di Gad Lerner, però siccome ha sparato una cazzata, ed è un delirio editorialista militante, non c'è dubbio. Allora, prima però vorrei andare su Spatalino, perché mi sembra particolarmente in forma in questo periodo, è tornato a essere in forma. Tu hai notizie da quelle parti, perché è così in forma Gottardo Spatalino? Hai delle notizie? Ma sembra che ci siano alle viste una nuova trasferta a Santo Domingo e la cosa lo galvanizza. Ah beh, immagino per motivi. Sì. Nonostante possiamo immaginare cosa. Il Viagra fa miracoli. Vai con Spatalino, vai. L'Italia da tempo è diventata rifugio peccatorum, ricettacolo di certa immondizia africana. Ecco, secondo te Parenzo, questa volta voglio analizzare bene la situazione. Dire immondizia africana è una roba razzista? Cioè una roba secondo te che dovrebbe portare il signor Spatalino ad essere cacciato a pedate nel culo, oppure semplicemente ad essere trasferito in un reparto psichiatrico? Tu sbagli a porti la domanda, cioè la risposta mi sembra evidente. C'è la seconda, no? La seconda. Cioè non i tribunali italiani. Prima una e poi l'altra. Prima uno e poi l'altro. Libertà, ma ti libertà, dico di più, dai. Ad ascoltarlo, non c'è grande differenza con Mario Giordano. No, adesso. Cioè, se tu lo ascolti, Mario Giordano non batte. Guarda, non batte Giordano. Ecco, però. E dice Donato. Qual è la differenza unica? Cioè, tu stai dicendo che Giordano potrebbe fa essere la sua perché non l'ha ancora invitato? Dici? Perché non l'ha ancora invitato? Ti stupisci del fatto che. Mi sembra strano. Vuoi venire in Italia? Ma devi saper parlare italiano e non beduino, arabo, cinese, ostrogoto, eccetera. Italian first. Allora, posso dirti? Allora, su questo Italian first. Ma in Italian inglese first. No, ma l'hai sbagliato, first. Vabbè, dai, su. First, ma ho capito, è un napoletano. Non beduino, arabo, cinese, ostrogoto, eccetera. Italian fist, cioè devi infilare un braccio dove tutti sanno. Italian però fist. Potete, ragazzi, però c'è una cosa. Effettivamente questa cosa di Boris Johnson dei giorni scorsi è straordinaria, se ci pensate. Io non so se sia giusto o sbagliato, però c'è un paese, sarà anche in direzione di quello che dice Spadalino, non mi interessa, per me se uno dice una cosa che va bene, adesso Spadalino lasciamolo perdere. Però Boris Johnson cosa ha detto? Cioè il governo inglese cosa vuole fare? Se non so l'applicabilità di questa cosa. Qui da noi decidiamo come stracazzo ci pare. Noi facciamo entrare solamente gente che parla l'inglese è solamente gente che vogliamo noi, che ha una certa. Ma è propaganda, è propaganda, di Boris Johnson. Non lo so se Johnson. È propaganda. Ma quanti italiani anche uscire dall'Europa e intanto in se n'è andato? Era propaganda, ma... intanto l'hanno fatto. E dai, su, tutto propaganda. Che cazzo vuol Scusami. Dire? Scusami. Ricordo a me stesso perché è una puttanata. Io che non sono più iscritto all'ordine dei giornalisti, faccio il giornalista. La Gran Bretagna non era zona Schengen neanche prima della Brexit. Ma che cazzo quindi c'entra? Potevano farlo già prima. Sì, no, esatto, no, certo. Potevano farlo anche prima, per amore della realtà. Esatto. Mamma mia, come siete pedanti. E chiudo col reddito di cittadinanza nel dire che è una porcata il reddito di cittadinanza. Questo è vero. Movimento 5 Stelle, assassini. Mario da Varese, dai, Mario da Varese. Mario. Pronto? Dimmi Mario. Sono Peppe da Castel Volturno. Peppe da Castel, perché se c'è scritto Mario da Varese? Scusa, non ho capito. Perché hai scritto Mario da Varese invece di... Mario, perché sono Mario da Varese. Dai, forza, dimmi. Allora, io ti volevo dire che mi sono girati i coglioni per quello che hai detto lunedì sull'aborto. Ho capito. Se ti girano i coglioni, è giusto che ti girino i coglioni, ma che cosa vuoi che ti dica? Io ho detto semplicemente che se una donna ha fatto 6-7 aborti, saranno cazzi suoi. Limitate gli aborti. Scrivete in una nuova legge che le donne possono abortire al massimo 3 volte. Alla quarta volta le mettete in prigione. Che cazzo ti devo dire? Sarebbe giusto, assolutamente. Ma sarebbe giusto nella tua mente malata. Io capisco. Perché tu metteresti in prigione una che vuole abortire? Tu metteresti in prigione una che vuole abortire? In prigione. In quanto assassina, una donna che abortisce la metteresti in prigione tu? Sì, dipende. Da che cosa dipende? Da caso a caso, qual è il caso? Certo. Qual è la differenza? Una che abortisce perché non gli va di avere un figlio, una che abortisce per necessità, è uguale. Perché se tu parti, appunto, per te è uguale, perché tu sei un radicale. Ma io non sono un radicale, figura radicale. Ma che c'entra radicale? Non c'entra niente. Ma come fai a distinguere? Uno ti può dire: io non voglio mettere al mondo i figli perché non c'ho un euro, perché è stata una cosa casuale o perché non me la sento, eccetera. Un'altra che ma dice, quelle donne hanno bisogno di assistenza, però. Sì, vabbè, il tema è questo. Mario, cioè, non ho capito. Chi è che metteresti in galera? Non ho capito, Mario. Chi metteresti in galera? Io metterei sicuramente in galera i medici abortisti. Ma i medici abortisti, perché purtroppo ce ne sono troppi pochi. Ce ne sono troppo pochi i medici abortisti. Ce ne sono troppo pochi. Troppo pochi. Perché l'aborto è un omicidio. E chi pratica l'aborto è un assassino. Ma tu vai a vivere in un paese dove non so se in Iran magari si può fare, non mi ricordo, non lo so. Vai a vivere in questi paesi qua dove non c'è la libertà di abortire. Chiaro, Mario? Di abortire secondo i termini di legge, ovviamente. Appunto, ma quello che dici tu va contro la legge 194. Ma non rompere i coglioni, ma non dice cazzate, fermi tutti. La zanzara. Cioè, questo significa che ti piace qualcosa del nazismo, di quel signore con i baffetti. Ti piacerà qualcosa del signor Hitler o no? Mi piace ad un certo punto l'ordine, la disciplina, l'organizzazione che c'era in Germania. Mi piace che la Germania abbia difeso a un certo punto l'Europa. Sono in compagnia. Caro avvocato, caro avvocato, mia nonna è stata in campo di concentramento nel campo di Bergen-Belsen. I suoi parenti sono morti nel campo di concentramento. Ma scusa, io se la trovo a Verona le sputo in faccia. Se ti trovo per strada non ti tocco, ma ti sputo in faccia. Bellazzi, io non capisco. Ti denuncio alla procura. Infame che non sei altro. Ti sputo in faccia, nazista schifoso. Avvocato, come si fa a dire che l'olocausto non esiste? Ma perché? Schifoso. Come si fa a dire una cosa del schifoso. Genere? Schifoso. C'è la prova. Maledetto schifoso. Ci sono maledetto schifoso. Non è caso. Io ti denuncio alla procura. Mia nonna è stata in campo di concentramento. Maledetto. La telefonata sarà registrata. Per garantire la qualità il decoro e la correttezza dell'organizzazione dei contenuti dei programmi di Radio 24. Credi che questa mia non sia poesia? Guarda i prodigi della mia malinconia. Sarò la sintesi del delirio dei matti. Vi mostrerò i fiori migliori negli anfratti. A parola poco è buon. Un necessario, poco è buono. Necessario, no, a forza la mondo, a mattinassa, dei 4 mattini fino alle 12. Il necessario, una posta, una cosa, una lasciuta, un giornale, una cosa, una notizia a posto. Un necessario, non di continuo. In casa devo lavorare, con il tempo, ognuno c'ha impegni suoi. Un necessario, saluti a posto, non è niente 5 minuti, e c'è un sermone. Voglio dire cosa dice, faccio sapere. Oh, potete rimandare gentilmente Barisoni Gay, che registro e la metto come suoneria dei messaggi, per favore, grazie. Barisoni Gay ha ispirato i canti e una sintassi di parole. Vedete, l'aria di montagna gli ha dato alla testa, vedo. Vuole dare schiaffoni a tutti. Oh, stai attento che prima o poi qualcuno ti piglia in parola e ti viene a spaccare il culo, compa. Stai attento. Cioè, David, cazzo, fai il gretino, regali le borracce ai tuoi figli, eccetera, e poi vai in settimana bianca, cioè, che è una delle robe più inquinanti del mondo, tra innevamento artificiale, impianti di risalita e quant'altro. Cioè, ma vergognati, parli e basta, stai a casa così non inquini, stai a casa. Che cosa c'è? Cioè, paradossalmente è molto più ecologico Cruciani, che vuole il mondo pieno di plastica, che vuole usare la plastica, lo studio pieno di plastica. Lui non va in settimana bianca e inquina meno di te. Pensa un po'. L'eternità non è il sole in... Allora, vi dicevo prima di questa follia del signor Gadlerner, Parenzo. Signor Gadlerner, il tuo amato Gadlerner, diciamo. Allora, sì, amato il signor Gadlerner. Allora, dice, ma voi sarete d'accordo, perché siete completamente fuori di testa, quando si parla di Salvini, tutta la vostra apertura mentale, che di solito avete, con alcune eccezioni, ovviamente, si dissolve completamente. Ora, il signor Lerner, e parlo di te, di Gottardo, Ora, il signor Lerner dice... sapete che oggi c'è stata questa strage, ieri, oggi, non mi ricordo quando, oggi in Germania, certo, no? Certo. Impressiona 9 vittime. No, impressiona, no, credo che fossero 11, adesso non ricordo. Impressiona l'analogia fra la strage nei shisha bar di Anau e il raid di Macerata, che 2 anni fa cambiò il corso della politica italiana. Secondo lui cambiò quella il corso della politica italiana. Parla, certo, di Traini. Di Traini, parla. Traini. Sì. Il killer era un ammiratore di Hitler iscritto alla Lega. Ora io dico, questo è vero, mettere però, un mettere, certo che era vero. Era stato mettere, anche candidato. Sì. Era stato anche candidato. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Mettere in mezzo a un episodio gravissimo come quello della Germania, in cui sono morte delle persone, in cui i neonazisti ammazzano della gente, ammazzano della gente. Mira, aspetta, solo perché hanno migliore mira. Fammi finire. Mettere in mezzo. Ha sparato con una pistola, la stessa cosa. La Lega, in una vicenda come quella, di cui a me non mi fotte un cazzo, ripeto per l'ennesima volta, della Lega non me ne frega niente, lo direi anche di un qualsiasi partito politico, mettere in mezzo la Lega per un fatto gravissimo che è accaduto in Germania, come fa implicitamente il signor Lerner, è una vergogna. Però voi continuate a pensare una cosa fattuale. Ma dai, ragazzi, cioè, su, Traini ha sparato con un'arma da fuoco. Quello in Germania ha sparato con un'arma da fuoco. Dai, sai qual è l'unica differenza? È la quello, mira. Ma non è la, la mira, mira. E no, credo che nessun e credo che nessun partito al governo in Germania abbia mai candidato costui che ha sparato. Invece con Traini era anche successo. Dai, stai paragonando la situazione la del neonazismo in Germania, che ammazza delle persone. I due episodi singoli. Su, I due episodi dai, singoli diciamo sono, sono, diciamo, differenziati puttanacci solo dalla potenza di fuoco e dalla mira di Merkel, che per fortuna aveva tradito. Quello ha messo strumentalmente in mezzo la Lega in una cosa avvenuta in Germania. Una cosa avvenuta in Germania anni cose fa. Vere, anni fa, cose vere. Lerner fa il giornalista meglio di te. Però. Sì, meglio di te. Inappuntabile quello che ha scritto. Lerner fa il giornalista meglio di te, Cruciani. Va, vai a fare in culo, vai. Porro sulle sardine, vai. Sardine, flop di Napoli, tutti quanti ormai hanno capito, e purtroppo anche noi per tempo, che le sardine erano niente insieme al cerchietto. Sardine flop, qual è l'unico giornale che titola sulle sardine che vanno all'Ilva di Taranto, dove non becca un cazzo di nessuno? Qual è? Repubblica, il fenomeno che ha sempre creduto nelle sardine. Noi fra un po', io ve l'avevo detto in tempi non sospetti, vi prego, quando riempivano le piazze, ricordatevi, riprendete avere quelle zuppe, questi inutili cerchietti sui quali questi cazzoni che hanno caduto e hanno creduto che avessero fatto qualche cosa, non hanno fatto nulla. E se è stato soltanto uno straordinario, geniale escamotage del PD e di Bonaccini di andare due volte in televisione, uno con i loro, la seconda con le sardine, con l'unico obiettivo di dire quanto erano fichi, quanto erano civili, quanto erano popolari, quanto erano società normale questi ragazzi, che ragazzi non sono. C'è un cerchietto, tre amiche, una si chiama Jasmine, io la trovo fantastica, e una bella serie di ex girotondini con i capelli bianchi. Allora, eravamo con Mario da Varese. Mario da Varese. Ma mi sembra una follia questa, no, cosa. Numero che uno. È esattamente questa... la verità, Porro. Ha detto ma esattamente avete la verità. Questa acrimonia. Ma non è continua. L'acrimonia. Cosa... Guardiamo le cose e le giudichiamo secondo le nostre opinioni. Ma qual è il problema? Non ho capito. Pensiamo che siano dei cazzoni, e sono dei cazzoni. Uno pure con il cerchietto. Dei cazzoni, di cui uno col cerchietto che sembra una specie di studentello, una specie di professorino che ci vuole dire come si vive. A io noi come si vive capisco. O come non si vive. Non ce lo dice il signor Santuzzo San Minchio, come si chiama, ce non lo ce dice lo Mario Giordano, ma non ce lo so, nemmeno Mario Giordano, come si nemmeno vive. Mario Giordano, ma esatto, certamente nemmeno Santuzzo in primis, no, sicuramente non Santuzzo San Minchio, come si chiama, non ci dice come si vive Santori, su web, come Santori, si vive su Santori, come si vive nella società civile, non me lo insegna Santuzzo della minchia. E poi ripeto ancora una volta, vorrei capire, essendo lui, però sembra, non dici Giordano un della lavoratore, minchia, perché non dici Giordano lavoro, della quando minchia, dice delle cazzate, perché non dico dici Giordano della minchia. Minchia. Dico Giordano, non l'hai della mai minchia. Detto Giordano, ma lo posso, della minchia, non lo posso mai dire. Detto, dici che mi è un starà attore più simpatico Giordano, dici? Certamente nel suo mestiere, almeno fa un mestiere, quello di intrattenitore, giornalista, il cazzo che è, quello che cazzo fa nella vita, nulla, non fa un lavora, cazzo, perché lavora, altrimenti lo vedremo lavora, lavorare, lo vedremo lavorare ogni giorno, ti invece sbagli, di andare a Napoli sbagli e da altre parti a rompere i coglioni. Impiega il suo tempo libero andando a Napoli per le cause. Ma non è tempo libero ogni giorno, che cazzo di lavoro è che hai tempo libero per andare mezza giornata. Beh, scusami, a Napoli a Ischia. Cruciani, scusa, tanto Gottardo ha cambiato gente... idea. Ieri la pensava come no, me, oggi ha cambiato però, idea sulle no, sardine. No, no, è incredibile. Allora, a me continua a starle sulle balle quello oh, sul col cerchietto. Mi fate incazzare, e credo guarda, che siano del tutto incazzare. inutili. Però, a differenza di Sartori, ci sono Santori, qualche cazzo che si... ce ne sono altri che vanno mezza giornata a Napoli, mezza giornata di Santuzzo, altri lavoreranno, lui non so che lavoro fa per essere libero quasi tutti i giorni. Figuriamoci tanto di cappello, ma non fa un cazzo. Gente libera tutti i giorni di andare in giro invece di andare in Parlamento. Ti faccio due esempi: Sgarbi e Salvini, perché non ti incazzi? A loro paghiamo lo stipendio. Io ti ricordo che a Santori non paghiamo lo stipendio. Ma sei un bestemmiatore! Sei un bestemmiatore! Sei un bestemmiatore! Stai bestemmiando! Paghiamo lo stipendio, 20.000 euro al mese. Mario, 20.000 euro al mese, pure lui. Non vanno mai in Parlamento. Non vanno mai in Parlamento. Mario da Varese, Mario, è una buona osservazione, ma la respingo. Mario, e qui il giudice dice respinta la mozione. Respinta la mozione, Gottardo. Mario, Mario da Varese ci stava dicendo, che manderebbe in galera i medici che fanno che praticano l'aborto. Io dico che sei un criminale, Mario. Dovresti andare tu tre volte in galera. Se mai ci fosse una legge del genere, ti manderei io in galera con una pena al cubo rispetto a quella che vuoi dare ai medici. Al cubo, chiaro? Ce ne sono troppo pochi. Troppo pochi. Una pena al culo. al cubo. Tu prima hai detto che devo andare in Iran, giusto? Ah, vai in un paese dove l'aborto paese. Non c'è, così hai non detto, rompi le balle. Lo faccio io, hai detto una stronzata. Gli stati con una legislazione meno restrittiva. No, infatti ho detto l'Iran, non lo so, può darsi che ce l'abbia. Più restrittiva, la civile Gran Bretagna, la civile Finlandia. Ma quando mai in Gran Bretagna si può abortire? Sì, ma non è vero per niente. Ma quando in Gran Bretagna si può abortire oltre il terzo mese? Non dire cazzo, stai dicendo. Sì, è uno dei paesi di Europa in caso di rischio per la vita della madre. Ma non rompere i coglioni. Ma documentati, ma studia un attimo, poveretto. Fermi tutti. Adesso la borsa. La zanzara. Ho trovato quattro parole che riassumono la mia vita. La gente deve pagare. La gente deve pagare. E con il sangue. La gente deve pagare. La gente deve pagare. La gente deve pagare. La gente deve pagare. E con il sangue. La gente deve pagare. Pagare. La gente deve pagare. Pagare. La gente deve pagare. Pagare. La gente deve pagare con il sangue. La gente deve pagare. La gente deve pagare. Soffrire. La gente deve pagare. La gente deve pagare con il sangue. La gente deve pagare. Pagare. La gente deve pagare. Pagare. La gente deve pagare. Pagare. La gente deve pagare con il sangue. Pena di morte no però. Chiudere e lasciare morire. Pena di morte no però. Soffrire. Io così a fine anno non ci arrivo. Io così a fine anno non ci arrivo. Complimenti. Il giocatore è in ospedale, è alla frattura e lei non ha fatto nulla. Gaucci, noi siamo di Serie A, Gaucci! Vai a fare il culo, è tuo fratello! Ma Parenzo, ma è possibile che ogni volta che si parla di figa o di sesso ti scandalizzi come una suorina di 20 anni? Ma dai cazzo, ma tira fuori la tigre, dai! Allora ragazzi, prima di presentarvi un ospite che ho qui accanto a me, caro Parenzo, mamma tu non lo puoi mia. Vedere perché mamma. Sei a Madonna di da Campiglio. Tremare. No, da tremare. Da tremare, da è una persona da di, una, di una statura, direi, no, il non plus ultra. Da tremare. Il non plus ultra. Da tremare. Gottardo, anche tu hai avuto a che fare una volta con questo signore che è qui accanto a me, anche tu non lo puoi chi vedere. È costui? Aspetta un attimo che devo ancora risolvere delle pratiche burocratiche qui. Poi ve lo presento. Vi volevo dare due notizie. La prima che pare che il signor Etro, il nostro amato ex terrorista o terrorista, chiamatelo come volete, il signor Etro, pare che possa perdere il reddito di cittadinanza per un errore burocratico, non so che cosa. Bene. E addirittura ottima potrebbe addirittura notizia. No, ma che ottima. No, sì, allora sul reddito di cittadinanza sì, perché io non volevo il reddito di cittadinanza. Dice che non ha più un euro e potrebbe andare con i cartoni o non so con cosa alla Caritas. E dice anche che potrebbe addirittura finire in galera per i suoi precedenti, perché ovviamente non ci sarebbero sconti di pena. E sai che se uno fa una cazzata con reddito di cittadinanza, praticamente rischia da uno a non so quanti anni di galera se dice delle cose inesatte sul reddito di cittadinanza. Dunque, mi hanno tolto il reddito, ora andrò in carcere, dice Etro. E Gottardo è contento di Etro che finisce in carcere. Questa è la prima cosa che ti voglio dire. Questo mi sembra normale. Ragazzi. Sembra normale. Poi voglio dirvi un'altra cosa, ma ve la dico dopo perché devo recuperare il passaggio che vi volevo leggere, ma ve lo dico tra un attimo. Luca dalla provincia di Modena, vai. Luca, provincia di Modena. Oh, ciao ragazzi, allora io chiamo perché vi ascolto sempre in podcast da Singapore. Da Singapore. Beh, Singapore, che problemi ci sono? Coronavirus e cose del genere? No. Ce ne sono un po'. Ce ne sono tra l'altro un oggi po', è successo una cosa. Sono atterrato stamattina da in dove? Italia, a Bologna. Ah, da Singapore. Beh, da Singapore si può tranquillamente, senza problemi. No, perché è stato uno dei pochi paesi che non ha chiuso i voli con la Cina. Ottimo. E quindi ci sono tanti infettati. Ah, ci sono tanti infettati, dunque l'Italia secondo te fa una cazzata perché dovrebbe chiudere i voli anche da Singapore, no, di conseguenza. Ma non è che l'Italia fa una cazzata, perché Singapore secondo me ha fatto una cazzata. Ho capito, però tu da Singapore, se tu fossi un cinese o non so, uno infettato, parti da Singapore e arrivi in Italia tranquillamente. Esatto, e non c'è schermatura. Tra l'altro oggi che cosa è successo a Pisa? È successo un 24enne, stava per essere fermato dai carabinieri, uno che ha fatto una mezza rapina o qualcosa del genere, ha fatto finta di svenire e cadere per terra dicendo che ha il coronavirus. Non arrestatemi, ho il coronavirus. Dopodiché, ovviamente, i carabinieri non ci sono caduti, non ci sono cascati, e poi hanno fatto un controllo. E quello prima del controllo ha detto: no, scusate, ho detto una cazzata. Vabbè, allora perché aveva comunque, il Fabrizio coronavirus. Sì, Fabrizio. È probabile. Posso parlare? Allora, la ragione per cui ho chiamato che ascoltando i podcast ti aiuta molto a pensare le cazzate che dice Parenzo. Sì, questo anche, le cazzate che diciamo tutti. Questo può essere, questo può essere. Può aiutare anche la notte ad andare a dormire. Parenzo, assolutamente. Io chiamo il citazionista, lui è un citazionista, vive di citazioni. Ma non esageriamo, manco troppe. Dipende. È vero. Vabbè, allora lui chiama, telefona un avvocato e Parenzo cosa gli dice? Studia. Ma Parenzo cosa c'ha il titolo di studio? Ma dipende quale? Dipende cosa dice. L'avvocato negazionista, se tu fai riferimento all'avvocato negazionista di Verona, ma quello è un pazzo, ragazzi. Quello sarà anche un avvocato, ma tecnicamente è un coglione, cioè ha il titolo di avvocato. Ma che terza media? Non è laureato, ma non vuol dire nulla, dai, su. No, però non può dire alla gente che studi, perché lui vive di citazioni. Luca, scusami, liceo classico, amico mio. Aspetta, un'altra cosa, le marchette di Parenzo. Sì. Allora, ti piacciono quelle? Lui fa la settimana bianca, fa il fenomeno, che lui parla con i lavoratori. Tu non fai la settimana bianca? Tu non la fai la settimana bianca? Viva Singapore, guadagnerà un sacco di soldi a Singapore. Perché se sei andato ad abitare a Singapore, sicuramente guadagni dei quattrini. Perché io a Singapore ci andrei col cazzo se non guadagno almeno mezzo milione di euro, 200-300 mila euro a Singapore. Per dire, no? Non andrei ad abitare a Singapore, un posto non mi fare parlare. Ne guadagni molti di più. Ne guadagni molti di più in Italia, peraltro, faccio notare. Vabbè, Gianluca da Pistoia, dai, mi sono rotto il cazzo di lui. Gianluca da Pistoia, dai, dimmi. Gianluca. Pronto, ciao ragazzi. Dimmi. Senti, ti chiamo a proposito della Brexit, tu quello che c'è relativamente. Sì, Johnson che ha deciso di fare questa roba qua e ha fatto, secondo me, benissimo. Non è che ha fatto benissimo. Assolutamente. Ha detto, spiegalo agli italiani che stanno lì. Ma quelli che stanno lì restano già là. Lui, Boris Johnson, siccome ha deciso di farsi i cazzi suoi, e per fortuna ha deciso di farsi i cazzacci suoi, in Gran Bretagna, per me per fortuna, cioè che, non ho capito, è stato eletto per questo, c'è stato un referendum, l'hanno rieletto 40.000 volte, qual è il punto? Vuole applicare quello che hanno deciso, che ha deciso il popolo, quello che ha deciso la gente. Cosa hanno deciso questi qua? Di dargli mano libera su questo, e ha deciso in Gran Bretagna, non è che non puoi viaggiare, non è che, però possono entrare a lavorare solo quelli che parlano un po' di inglese, adesso non so quali saranno i criteri e se lo farà, e in più quelli che hanno una certa qualifica. Qual è il problema? Non ho capito. Qual è il cos'è che vi addolora di questa cosa? Non c'è il problema, non c'è. Io ogni giorno ho a che fare con persone musulmane che sono professionalmente valide, ma che non parlano italiano, perché crea problemi di produttività. Tutto qui. Come Antonio Razzi, anche Antonio Razzi avrebbe lo stesso problema. Però ecco, appunto, si possono fare esempi di persone che non parlano perfettamente italiano, però questo non c'entra niente. Perché Gianluca dice che ci sono italiani che non sanno bene, cioè ci sono stranieri che non sanno bene l'italiano e sono dei grandi professionisti. Però devo dire la verità, Gianluca, esistono per esempio dei pizzaioli marocchini che sono dei meravigliosi, magari non parlano l'italiano perfetto, ma chi se ne frega. Però io rispetto la decisione di un paese come la Gran Bretagna. Ma che neanche la massaggiatrice che ti ha fatto il massaggio a te, quella cinese, no, quella poveretta, italiano, che brutto lavoro che proprio ha fatto, l'italiano non lo, no, ti ma, ha toccato, no, ma proprio l'italiano non lo conosceva. Cioè l'italiano benissimo, non lo conosceva proprio, non lo sapeva. Fa lo stesso degli ottimi massaggi. Ma infatti però io la farei entrare alla grande con un lavoro specifico. E tu allora, entri vedi, anche se non ti stai contraddicendo. No, ti stai contraddicendo. Io, no, non hai capito il mio spirito. Io ho detto Boris Johnson fa il cazzo che gli pare. Non ho detto che è giusto non far entrare chi non sa un po' di inglese. Per me è sbagliato questa cosa qua. Mentre una persona qualificata professionalmente è giusto. Una persona che non parla bene l'inglese per me è un provvedimento sbagliato. Però può farlo, esatto. perché ci ha detto ma all'Europa. Ma lo può fare, ma ci possiamo ha detto, criticarlo, andate a fare ma in culo. Questo ma lo poteva fare anche prima, fare in culo. Lo poteva fare anche prima, no. Non hanno mai aderito al trattato di Schengen. Quante volte devo dirtelo? Mamma mia, ragazzi, ho qui accanto a me un personaggio, diciamo, straordinario. È stato più volte ospite di questa disgraziata trasmissione. il mitologico ambasciatore presso l'Unione Europea, dopo essere stato della Santa Sede, eccetera, eccetera. Pupi D'Angeri, buonasera! Buonasera a tutti. Come voi? Andiamo? Sono caro. Venuto a trovarla. Giustamente mi date lei. L'ambasciatore. Un vero miliardario. Sì, vero miliardario. Milionario, si dice, milionario. Ma perché è un delitto? Non ho capito. Milionaire. Oggi mi sono arrivate foto che eravate a mangiare in un lussuosissimo ristorante assieme a un altro amico caro che è Gianluigi Nuzzi. Non era lussuosissimo. Non era lussuosissimo. Lussuosissimo. Ho visto delle bottiglie incredibili di Sassicaia, delle Magnum, che costano quanto prende un redattore ordinario di qualunque redazione, certo, Gottardo deve saperlo. Sì, in questo ristorante pazzesco dove stavi mangiando gratis perché avrà pagato chi il billionaire seduto lì vicino. Bravo, chi ha pagato? Pupi, chi ha pagato? Pupi, pagato sicuro, ho pagato io. Ha pagato ragazzi, quanto? Quanto hai pagato, amico caro? Credo che sia volgare, è una volgarità enorme. No, non è volgare in alcun modo. È diritto di cronaca. Non è volgare in alcun modo. È diritto di cronaca. Per una colazione, per la vostra colazione, quanto avete pagato? Nemmeno 100 euro, credo, no? No, di più. A testa però. Non credo 100 euro a testa, ma era un ristorante normalissimo. Quanto? Cioè, ma no, quanto? Ma saranno cazzi nostri. Quanto hai pagato? Quanto? Ma cazzi parla! Allora, vedete cari ascoltatori, quelli che ridono con le bottiglie di Sassicaia, ma da non abbiamo preso euro, nessuna bottiglia di Sassicaia. Sono gli stessi che poi sono contro il reddito di cittadinanza. Ma certo, ma anche l'ambasciatore è contro il reddito di cittadinanza. O sbaglio, ambasciatore? Beh, io non voglio giudicare il reddito di cittadinanza. Ci vuole il reddito di sostegno per chi ne ha veramente bisogno. Okay, ma non questa roba grillina che hanno fatto è una roba degna, secondo te? Scusami. Non credo che sia una cosa. Diciamo la verità. Ma è la stessa cosa: reddito di sostegno di cittadinanza è la stessa cosa. Ma quanto deve percepire uno per vivere degnamente, signor ambasciatore? Secondo me, un uomo per stare con la sua famiglia. Con la sua famiglia, col minimo, quanto sarebbe? 1.000 euro. Come 1.000 euro? 1.000 euro come? Ah, che con 1.000 euro si vive, secondo lei? Voglio dire, uno che sta sulla poltrona mi sembra tanto. No, dico, con mille euro si può campare, con due figli si può campare. Con 1.000 euro. Beh, ambasciatore, 1.000 euro con due figli. Disse quello che diceva, mi pulisco l'uccello con 25.000 euro, dice, con 1.000 euro chi l'ha detto? Chi l'ha detto che si pulisce l'uccello con 25.000 euro? Gliel'hanno attribuito a lei, ambasciatore? No, ma forse, guardi, leggo sulla rassegna stampa. No, io guardi, l'uccello me lo pulisco in un'altra maniera. Euro, no, mi asciugo l'uccello. Questo lo dice lei, la prego, io su queste cose non arrivo. Il 13 luglio del 2019, i ospiti della Zanzara. Beh, quello forse l'hai detto, sì, forse quello l'hai detto. Ma nella maniera più assoluta, non è nel mio stile. Lei che mi si è permesso di dire che io mi pulivo l'uccello e l'ho mandato a quel paese. Chiedo l'incidente probatorio alla corte. 13 luglio 2019, lei che si è permesso di dire queste volgarità. Io la inchiodo alle sue responsabilità. Lei ha detto 25.000 euro, mi pulisco l'uccello. È solo sue parole che dice queste cose qui, perché io ho un'educazione che lei non si può permettere. Allora, non sta scherzando, sembra che scherzi. Allora, fermi tutti però, torniamo indietro. Voglio chiedere un attimo una cosa all'ambasciatore, prima di andare sulle sardine, perché lui è molto incazzato con le sardine, per la vostra gioia. Cioè, pensa che delle sardine siano sostanzialmente un gruppo di cialtroni, diciamo la verità. Diciamola tu, dimmela come me l'hai detta oggi, perché sennò allora, ritengo che, siccome io sono un uomo anziano... Sì. Molto ricco, bisogna dire. Lasciamo perdere. Però molto ricco, vabbè, diciamo. Sto bene. Sì, sta bene, più di bene, diciamo. Il nostro gruppo... C'ha l'aereo privato, ambasciatore. Sono atterrato proprio per venire con lei, adesso poi me ne vado stasera. Con l'aereo privato. Ma come l'aereo privato? C'ha l'aereo privato, sono cazzi suoi. Un aereo. Ma perché è un delitto? Ma frequenti la ricchezza in faccia. No, è lui che dice che c'ha l'aereo privato, mica l'ho detto io, scusi. Uno deve sbattere la ricchezza in faccia, è di una volgarità inaudita sbattere la ricchezza in faccia. No, allora però specifichiamo questa cosa. Il suo aereo privato è a Londra, giusto? Dov'è di solito? È basato dove vivo io, a Londra. È basato a Londra. Quanto costa avere un aereo privato? L'aereo basato a Londra. Quanto costa avere il suo aereo privato? In genere, un budget annuale, quanto spende lei per l'aereo privato? Intorno al milione? Più o meno, però... Quanto paga di tasse D'Angeri? Io vivo, sono cittadino del Belize. Non paga un cazzo. Sostanzialmente, quanto si paga di tasse in Belize? Hai capito? Zero, come zero? Cioè, lei non paga che tasse. Coincidenza. Che coincidenza. Non paga tasse. Io spero che la Guardia di Finanza controlli quanti giorni lei ha passato in Italia l'ultimo anno. Guardi, mi fa un piacere enorme. Perché io lo spero tanto. Anche può sperare quanto vuole, perché intanto io vivo a Londra, a me che mi importa. Certo. E adesso, grazie alla Brexit, non vivo neanche più in Europa. In che senso? Che non, può e più... non è più Europa. Ah, ah già, è vero, sì. Cioè, grazie alla Brexit, lei dice vaffanculo all'Europa. Pure anti-europeista, eh. È pure anti-europeista. Beh, scusi, secondo me l'Europa è come il circolo del clubino a Milano. Cioè? Dove si seguono, mangiano, ma alla fine, sì, mi consenta se prego, prego, mi permetto di dirle, sì, non è possibile un'Europa dove le tasse sono differenti da uno Stato all'altro, ma ha ragione, dove l'IVA non esiste, cioè ma che Stato in Italia è? Proprio, 22, lei, proprio lei che paga così 20, tante tasse, proprio lei che paga tutte queste tasse. No, ma io in Inghilterra tasse, le pago. Ma quante le tasse ha pagato? No, come le quante tasse ha pagato, Sdangeli? In Inghilterra, però, per lei è del Belize, dunque non paga tasse. No, ma io dove vivo pago le tasse in Inghilterra, in Inghilterra è ovvio. In Inghilterra. Allora, e quanto ha pagato? Quanto ha pagato l'anno scorso? Qualche milione di sterline. Qualche milione di sterline, okay, ragazzi. Qualche milione di sterline. Le sardine, allora, perché non sopporti le sardine? Le voglio spiegare, perché io sono un uomo anziano, voglio sì. dire, che ho una certa età e mi ricordo il fenomeno degli anni 60, sì. dove c'era il movimento popolare intelligente, c'era gente di cultura bravo, che faceva queste sì. rivoluzioni, si chiamavano culturali. Sì, sì. Le sardine certo, qui certo. sono un gruppo di sciamannati, diciamo, di scappati di casa. Scappati dicono di come... i giovani, pensi che se io vado dalle sardine sono il più giovane io, perché li ho visti in televisione, sono tutti vecchi, che non finisco più, non vedo un giovane. Ma chi vecchi? Cosa dici? Ma come cosa ma dico? Sì, ma lei guardi per televisione. Ha ragione Porro, dai. Lei vede queste persone. Ma lei non è mai sceso in piazza con tutti, a parte che c'è un anello di brillanti con quei suoi vestiti tagliati dalle migliori. Beh sì, c'è un anello. Meraviglioso però. Ti faccio abbracciare il suo anello un attimo. Sì. Ma i suoi quanto costa un suo vestito, ad esempio? Questo vorrei saperlo. Scusi, se ma tu lo sai che tu credo che abbia un sarto personale. I vestiti di ottimo taglio, un sarto beh, certo. Sì, ma a Londra se li farà confezionare a Londra? No, a Torino. E quanto viene un suo vestito, per intenderci? Io ho un mio sarto da 33 anni personale. Che lavora solo per me e i miei figli. Un sarto e le camicie? Solo per i figli. A Napoli lavora solo per me e i miei due figli. Un camiciaio, sì. camiciaio personale. A Napoli il camiciaio e a Torino il sarto. La guardia di Firenze viene? Saprà ma usare queste informazioni. No, ma poveretto, perché la guardia di Firenze che è risiedente a Londra? Io un approfondimento, faccia l'approfondimento. Ma digli qualcosa a sto Gottardo, di qualcosa a sto Gottardo che so che friggi là. Non lo considero Gottardo, poi già solo l'accento che è una roba. Certo. Sì, certo. Però guardi, allora io voglio capire una siamo, cosa. Noi per siamo cui, gente lavoratrice. Tipo lei quante cravatte ha? Adesso, siccome non mi piacevano più 2300 cravatte, ho comprato una partecipazione in un'azienda qui in Italia che fa solo le cravatte per me uniche al mondo. Una cosa incredibile. Ci dai 2300 cravatte così sì. di tuo. 2000. Ma sono vecchio. Ma come eh? Cazzo? Sì, ma ho capito. Ma come fai a scegliere una cravatta la mattina? Adesso c'è questa cosa rosa qua meravigliosa che non è nemmeno una cravatta. Come si chiama? Un Ascot. Un Ascot rosa con i calzini rosa. Una cosa beh, meravigliosa. Ho solo calzini rosa io. Come solo calzini rosa? Non uso altri colori di calze. Cioè solamente calzini rosa. Sì, fucsia. Fucsia, eccetera. Questo è un indizio. Comunque un il giudizio finale sulle sardine qual è? Cioè, non servono assolutissimamente niente, devono andare a studiare, vadano a scuola, si laureano e giusto, dopo fanno giusto. Le cose. Alcuni perché, sono laureati, per ma carità. Chi? Ma alcuni ma sono chi? Alcuni, quel, alcuni. Signore col cerchietto. Il signore cerchietto parla, sa parlare, non sa parlare, io che non sono italiano parlo l'italiano. Questi qui parlano, non sanno parlare l'italiano. Ho guardato ma chi qua. Parla italiano? Qui Santuzzo. Cosa dici? Santuzzo. Come cosa dico? Ma come si permette? Ma come mi permetto? Mi permetto perché ascolto che cosa dicono. Ascolta e dice che non sanno parlare italiano secondo i suoi criteri. Parenzo, c'è poco da fare. È così. Ma perché lei è risiede nel io chiedo scusa. Risiede nel paese straniero. Chiedo scusa, lei è per le sardine? Sì, abbastanza favorevole alle sardine. No, sì, no lei... guardi, in alcun... no, guardi, no, di no, gente mi... in scatola in Italia vostro. Ce n'è troppa. E il tonno questo... in scatola, e le sardine in scatola, basta. Dai, su, basta. Ma non sarebbe più della nullità. Dobbiamo, io credo che l'Italia meriti molto di più, perché ma... l'Italia è un paese fantastico. Ma ci sta ascoltando Mario Capanna, o sbaglio? Ho ricevuto un messaggio, lei conosce il signor Mario Capanna? No. Però... mai sentito parlare? Come non ha sentito parlare di Mario Capanna? Cioè, non... Beh, è stato un rivoluzionario. Beh, ha fatto il 68. Beh, un, certo. momento, un, momento, però... un momento. Ah, chiamarmi sì, rivoluzionario è assolutamente riduttivo. Allora, Mario, questo ma, signore... sì, Mario, ma non ho capito, stava ascoltando la zanzara, Capanna? Stavo ascoltando la trasmissione, ho telefonato al vostro centralino all'800 24 00 24 e ho chiesto immediatamente di intervenire perché ho sentito un miliardario borioso esprimersi in un modo talmente sprezzante nei confronti della povera gente che io per anni ho rappresentato. E vi voglio ricordare che negli anni 60 persone così sarebbero state inseguite e prese a sassate. Guardi, io ho partecipato alla rivoluzione degli anni 60 e non ho preso nessuna sassata. L'esproprio proletario, lei avrebbe meritato l'esproprio proletario con le compagne e i compagni, entrare nelle sue aziende e portargli via tutto. È una vergogna inaudita, questo signor Bangieri. È una vergogna inaudita. Grazie Capanna. Allora, ma lei, scusi, ha preso la metropolitana qualche volta in vita sua? No. Io sono uno che ha fatto la rivoluzione con i cubani e lei non dimentichi, io ho fatto la guerra in Angola. Sì, ma questo lo so perfettamente, però è stato con Arafat, è stato uno dei più grandi collaboratori del signor Arafat. Esatto. E Parenzo potrebbe dire che lei è stato con un terrorista, è stato uno dei principali collaboratori di Arafat. Tra l'altro questo gli ha impedito, non so se si può raccontare questa cosa. Non è una cosa positiva, non so se Arafat era un terrorista. Si può raccontare o no, la cosa dei suoi figli in Svizzera che aveva Arafat. Si può dire, è vero che tu nei primi cinque anni lui non ha potuto vedere i suoi figli, nei primi 5 anni di vita dei figli, giusto? Dai 5-6 anni. Fino ai 5-6 anni, perché? Esattamente. Come mai? Perché era troppo rischioso se li vedevo. E Arafat poteva, che cosa è Arafat che mi ha messo 27 guardie del corpo a mia moglie e ai miei figli. Dove? In protezione nell'isola di Anguilla. Di Anguilla, isola di Anguilla, protetto dai signori di Arafat, dell'OLP dei palestinesi, per paura di attentati da parte di che gli israeliani ammazzassero i due figli, più o meno. Adesso gli israeliani lo dice lei per eventuali attentati. È la realtà. Comunque non hai mai preso la metropolitana, questa è la realtà. No. Mai preso, mai. No. Beh, capito, questo è incredibile, Parenzo. Non ha mai preso la seggiovia. Persino Churchill l'ha preso una volta. La seggiovia, Churchill l'ha preso una volta. No, io non scio più. Ma come va a sciare, scusi lei? Una volta andavo a sciare in America. Con l'elicottero? Con l'aereo privato, con l'elicottero? Sì, cioè, no, che elicottero, andavo con la macchina, con un mezzo. A proposito di macchine, io ho visto ma come faceva ad arrivare in cima e poi fare la pista giù e risalire? La seggiovia, la presa la seggiovia col popolo. Ma certo, scusi, Però magari pulendosi le mani prima di prendere in mano lo ski lift, lavandosi le mani magari. Ma non credo. No, avevo i guanti, ma figuriamoci. Volevo mandare in onda alcuni pezzi dell'ultima volta in cui il signor D'Angelo è stato nostro ospite. Li mandiamo in onda dopo. È vero che lei è una macchina firmata? Cioè lei è una macchina con con la sua firma sulla certo, portiera? Perché se no non la riconosco. Ma come non la riconosce? Lui ha una macchina. È come il dottor tra l'altro Lenne. Una macchina diplomatica con la sua con le sue iniziali sulla portiera. Una cosa meravigliosa. Macchina diplomatica addirittura con i lampi in cui lei può andare in giro tranquillamente, ovviamente con la protezione diplomatica. Cioè è come se fosse il territorio del Belize. Tutte le automobili diplomatiche per tutti gli stati del mondo sono extraterritorialità. Capito, lo dice la convenzione di Vienna, non io. Sì. Senta, lei, ma lei per esempio la legalizzerebbe la prostituzione in Italia? Sarebbe un provvedimento straordinario. Secondo me sì. Cioè i bordelli li riaprirebbe? Immediatamente. Ragazzi, ma questo qua non è, cioè, altro che maggioranza silenziosa, ma questo è liberi armati. Cioè Pupi D'Angeli è un zanzareoso di ferro. Cioè Perché lei non lo riaperebbe? Ieri li avrei riaperti i bordelli. Cioè, ma è un'arte. Guardi, se voi passate la frontiera, andate in Svizzera, ci sono. Ma certo, Slovenia, Svizzera, Austria, certo. Dappertutto, Germania, eccetera. Posso chiedere una cosa all'ambasciatore? Posso chiedere una cosa all'ambasciatore del Belize? Mi dica, Belize, caro. Ha un PIL nominale di $5,000 l'anno. Lei, per il popolo del Belize, cosa cazzo ha fatto negli ultimi anni? Ma che c'entra? È miliardario. A parte fatto il cazzo che se lo tiene a casa sua. Bravo. Però voglio dire, noi lavoriamo. Non si può parlare con l'ambasciatore. Ha fatto del bene. Ha aiutato qualche povero ogni tanto? Oppure tra un viaggio a Napoli per farsi le camicie e uno a Torino per farsi fare le giacche con 2000 cravatte? A quelli del Belize qualcosa ha donato lei si vede che studia poco. E un altro che va bene con le sardine. Va benissimo con le sardine. Ma certo, io a parte il fatto che in Italia abbiamo dato in un anno 700 pasti, abbiamo invitato 700 poveri a mangiare. 700 pasti? Beh, ma tu hai fatto qualcosa? Non hai fatto un cazzo tu! Tu non fai un cazzo! Dai! In Belize c'è un ospedale col mio nome che finanziamo noi. Fermi tutti, benissimo, torniamo per il gran finale. Il cuore a parlare con voi. Fermi tutti. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità... La Zanzara. Sto riascoltando la puntata dell'altra sera. Gottardo è uno schifoso uomo di merda, ma non si può neanche definire uomo. È una merda, veramente una merda. Ma come cazzo fate a dare voce, a dare spazio a una merda di persona di quel tipo? Ma porca puttana. Come piace a lei la vulva? Io sono vecchio, pertanto preferisco il pilu. Ah, il pilu. Anche lei, tanto anche ormai lei. No, ma ormai tanto non frequenterà neanche più. Ma come? Quello scopa gomma? Ma che dire? L'ambasciatore è impossibile. Io non immagino un ambasciatore che... Cioè, anche lei, anche l'ambasciatore preferisce il pilu? Sì. Cioè, quando incontra una ragazza, lei frequenta sicuramente delle ragazze. Io, quelle che sembrano delle bambine, non mi dà fastidio. Hanno iniziato le russe a rasarsi, sapete perché? Come mai? Perché c'era il problema delle pulci, delle piattole. No? E allora, nei tempi del comunismo, le facevano rasare tutte, così erano contro le pulci, le piattole. L'origine della figa rasata sta nelle russe. Sicuro al 100% perché sono vecchio, me lo ricordo. Cioè, la teoria di Pupi D'Angeli è questa. Purtroppo sì. Le fighe hanno cominciato a radersi. Le fighe da sole no, insomma, da le donne. Da quando sono arrivate le russe? Ma chiamate esatto, perché dicono che le estetiste devono tagliare tutto, togliere tutto. Invece non è vero. Questa fu l'ultima apparizione dell'ambasciatore Pupi D'Angeli, ambasciatore del Belize presso l'Unione Europea. Devi sapere che c'è una situazione un po' bizzarra. Ma cosa farà tutto il giorno? No, aspetta, fermo che non si sente bene. Cosa fa tutto il giorno? I cazzi suoi farà, gli investimenti della sua società, una società con cui fa degli investimenti, dovresti essere favorevole. E rimane della stessa teoria, caro D'Angeli, non mi sembra di capire. Assolutamente. Cioè, preferisce la vulva pelata. Assolutamente. Col pelo. Beh, è questione di gusto. Assolutamente. Pensa che la rasatura, che va molto di moda in quest'ultimo periodo, diciamo, sia stata provocata dall'avvento, dall'entrata, diciamo. Mamma mia. Lui non sa che cos'è il MUM perché è giovane. Che cos'è il MUM? Il MUM era contro le piattole. E allora? Io conosco il MoMA, non il MUM. Il MoMA. Il MUM, che vuol dire il MUM? Cioè, il museo del MoMA conosco. Era una... polvere che si buttava per uccidere le piattole. Ma che c'entra questo con la vulva rasata? O con no, nulla. Proprio perché arriva di nuovo dalla Russia, sì, che nei tempi del comunismo, della Russia e dei paesi dell'est, si rasavano per evitare il trasporto. Per cui diciamo, la fine del comunismo ha portato le fighe rasate in Europa. Poi dopo è stata una moda. Sì, assolutamente. Assolutamente. Vedi che il crollo del muro ha portato a cose positivissime. Ma molto positive. In questo caso negative. Perché a noi non piacciono le rasate. Però ha portato ognuno... un sacco di vulva, scusa. Un sacco di vulva dalla Polonia e dalla Russia, altrimenti. Quello sicuramente. Hanno una particolarità le donne dell'est, caro lei che conosce il mondo, diciamo, no? Non diciamo sono tutti mondo e paese, voglio dire, però le donne che caratteristiche hanno? Sono molto attaccate alla famiglia, soprattutto alla mamma. Alla mamma? Sì. Quelle dell'est, le donne dell'est. Anche al denaro, qualcuno dice. Il denaro io non ho mai sentito nessuno. Ma una donna ha la libertà di fare del proprio corpo quello che vuole. Cioè, senza ombra di dubbio. La libertà di prostituirsi. Senza ombra di dubbio. Usarlo anche e di usarlo. Lei che ha avuto un sacco di fidanzate anche famose, di cui non facciamo i nomi, tanto basta consultare i rotocalchi, diciamo. No? Ma sa, io sono vittima del sistema. In che senso? Vittima del sistema, lui. Lui è vittima del sistema. Il miliardario vittima del sistema. Le spiego il perché, però. Perché non posso mettere... il naso fuori con una ragazza anche a chiacchierare che mi fanno le foto, certo. Allora chiamo mia moglie e gli dico: amore mio, sono vittima del sistema, vienimi a prendere. La cosa è incredibile. Senta Pupi D'Angeli, ma la sua carta di credito quanto ha influito sulla capacità amatoria che lei ha avuto in questi anni? Sa cosa, cioè, se lei fosse stato un metalmeccanico avrebbe trombato lo stesso donne, secondo lei, oppure lei ha perfettamente ragione. Il problema è che loro non sanno che io ho il braccio corto. Come mi chiedono? Mollo subito il braccio. E invece le dimensioni, come siamo messi? Questa non si chiede all'ambasciatore che dimensioni ha. Gottardo, non su. Io, signor Gottardo. Esatto, dai. Io non... Persino io non glielo chiedo, che sono un maiale. Dai, su. Non glielo chiedo nemmeno io. No, lei credo che stia un po' scendendo di classe. Esatto. E butti la radio proprio a terra. In bacca. Un'ultima cosa le voglio chiedere prima di liquidarla. Insomma, prima di lasciarla. Alla, e soprattutto deve andare a prendere l'aereo privato per tornare a Londra. Sì. Ecco, volevo chiederle una cosa. Ma Carola Rackete è stata prosciolta dalla Cassazione perché dice che insomma doveva assistere delle persone, ha rispettato le regole di diritto del mare internazionali. Lei che idea si è fatta? Io sono molto rattristato che ci sia questo cattivo esempio, perché la signora Carola Rackete ha speronato una nave della Guardia di Finanza. Della Guardia di Finanza. Io sono rattristato che la Guardia di Finanza non venga a trovarla invece. Veda come è fatto il mondo. Lei purtroppo ha dei risentimenti da bambino. Invece qui addirittura. Sì, lei probabilmente da bambino da contribuente, lei da bambino ha preso calci in culo dall'agenzia delle entrate. Lei ha preso calci in culo che lei non frequenta. Insomma, che è successo? Il fatto che allora il processo a Salvini non c'è il fumus, capisci? Cioè, chiunque può entrare in Italia, allora, secondo questi chiunque può entrare in Italia e sfondare gli argini che dicono che lei non poteva entrare, perché fino a quel momento lì c'era uno stop. Ma oggi lei chi voterebbe in Italia? Sa che cosa c'è? Che io non vedo gente con... Gestire un paese devi essere... È un po' un bordello l'Italia. Acculturato. Purtroppo qui c'è gente che non ha studiato molto nella sua vita. E questo è un danno enorme. Dunque, quando io sento dire che bisogna abbassare gli stipendi ai parlamentari è una grandissima stupidaggine, perché i politici devono guadagnare di più, ma senza ombra di dubbio, perché ha ragione, vero? Perché almeno se lei prende un avvocato che fa il politico e gli dà 3.000 euro, questo dice: guardi, io ringrazio, arrivederci. Se lei dà 3.000 euro, l'uomo che non ha mai studiato nella sua vita e non ha mai fatto un cazzo, dice subito: vengo qua. Infatti, se lei vede, vanno al Parlamento coi sandali. Adesso non esageriamo. No, come no, l'ho visto io personalmente. Grazie, Bubi Langeri, un grazie mito, a tutti leggenda. Voi. Ciao, grazie, ciao. Arrivederci a tutti. Grazie, cara. Dubitato. Deve andare a prendere l'aereo privato. Insane, but now that's over. So what if the sex was great? Just a temporary escape. Another thing I grew to hate, but now that's over. Why you always kick me when allora mi sta ascoltando in macchina, mi ha mandato un messaggio il signor Pupo che abbraccio fortissimo, un grande abbraccio da Pupi D'Angeri a Pupo. Un abbraccio, prima o poi Pupo quest'anno è un grande, tornerà tra di noi, adesso è impegnato in una cosa molto faticosa che è il grande fratello VIP, e dico faticosa per dire poco, molto faticosa dal punto di vista cerebrale, e non è ironia. Allora, eravamo Enrico da Roma, poi Francesco dalla provincia di Napoli, mi sembra. No, Enrico da Roma, vai Enrico, dimmi. Pronto? Sì. Ciao ragazzi, buonasera. Dimmi. Allora, io volevo dire un paio di cose. Dimmi. Prima di tutto... Intanto avete sentito la notizia, scusami, che la figlia di Steven Spielberg vuole diventare pornostar? È una cosa che va incontro un po' a quello che pensano Parenzo e pensa Gottardo. Allora, questa signora, la figlia di Steven Spielberg, dice di essere stata abusata da piccola, di essere stata a lungo depressa, di aver avuto una vita d'inferno, e adesso all'improvviso, figlia adottiva di Steven Spielberg, dice che deve seguire la sua natura e fare la pornostar, e fare i film porno. Che ti devo dire, ragazzi? È così. Eravamo con Enrico? Enrico, vai. Sì, eccomi. Allora, un paio di cose. Che vuole, Enrico? La prima è basta premiare Liliana Segre per ogni minima cosa che fa. Scusami Enrico, ma se uno vuole dare un premio a Liliana Segre, qual è ma il punto? Ma ho capito, ma chi danneggia però? Non danneggia nessuno. Che ne so, Champions League. Ma io capisco la polemica, capisco la polemica che vuoi fare. però perché se uno mentalizzata. Sì, ma se uno vuole dare un premio alla signora Segre, oggettivamente, io poi quando dice qualcosa posso anche non essere d'accordo con la signora Segre, però se un comune, un circolo, un'università vuole dare un premio alla signora Segre, ma qual è il danno che provoca nella società questa cosa? Diciamo la verità, non provoca nessun danno. Cioè, altrimenti o uno è matto e dice ma questa qua è una rompicoglioni, allora perché gli danno tutti questi premi? Ma questo non è un ragionamento, però. Cioè, allora, il danno che provoca, sai qual è ecco, stato? Sentiamo il danno. È stato nessun danno. Nessun danno. Ma la legge, ma non c'è stata nessuna legge, una commissione che non farà un cazzo. Io sono contrario a quella commissione. L'ho detto dall'inizio, la commissione Segre. Io la non è che la combatto perché non me ne frega niente, non farà nessun danno, però ero contrario e sono contrario. Questo non mi impedisce di dire, perché sono una persona libera, che se uno dà un premio alla Segre non provoca alcun danno, punto, non c'è nessun danno nella società, al limite un vantaggio perché senti parlare una persona che ha subito quello che ha subito e sentir parlare la Segre va sempre bene. Qual è il punto? Dai. Secondo me invece è un danno. Perché alimentano un modo di pensare completamente sbagliato, perché ti obbligano a pensarla per forza così. Ma chi, pensarla come? Non è che quella pensa delle come cose... Come la pensa Parenzo, per dire. Ma non diciamo stronzate, ragazzi. I pensieri, il modo di pensare della Segre non è una roba... Cioè, è una roba normale. Cioè, pensa dalla democrazia. Poi io posso non essere d'accordo... Fermi tutti, ragazzi. Stiamo... Torniamo tra poco. Fermi tutti. La Zanzara. Lesoto... strade sterrate sotto l'acqua con una polo e si ascolta la Zanzara. La Zanzara. L'altra sera non mi trovo a passare per Ponte Milvio, no? A un certo punto da lontano ti vedo che arriva un ragazzo mezzo cinese, mezzo giapponese, io non lo so, non ci capisco niente, no? A un certo punto questo con lo zompo monta sul parapetto e comincia a urlare delle frasi che non si capiva un cazzo. Ti credo, era cinese. E a questo punto della serata, ragazzi, passiamo dall'ambasciatore Pupi D'Angeri a Raimondo Etro. Da un ambasciatore del Belize a Raimondo Etro, ex terrorista. Vi ho detto che potrebbe perdere reddito di cittadinanza. Addirittura dice andrò in galera. Bene, bene. Remo, che è successo? Ah, scusa, pensavo fossi Pierangelo, ma chi è? Ma sono Cruciani. Ah, scusa, cazzo, pensavo che la chiamata anonima fosse la mia. Ma che? Scusa. Adesso molti minacciano e mica ti minacciamo noi, però. La chiamata anonima me la fa solitamente la mia ragazza, quindi... E che hai fatto? Hai fatto la voce come se dovessi scopare al telefono? No, ho fatto... Ah, roba incredibile. Tra l'altro stai finendo in mezzo a una strada e c'è la voce felice. E che cazzo mi frega, ma... Io ti voglio editorialista alla Zanzara, ti giuro. Ragazzi miei, io voglio Raimondo Etro, editorialista fisso di questa trasmissione. Fagli una statua a sto punto. Ma no, che cioè, statua? Uno... Ma per me ma per è uno favore. Che combatte come un pazzo dalla mattina alla sera, dai, su. Ma non è che combatte, è un personaggio che non ha rispetto per le vittime e per il dolore che ha creato in questo paese. Non fare la pazza. Giocate con le vittime, giocate con le vittime del terrorismo. Certo, questo è un personaggio che dovrebbe cadere nel dimenticatoio. Aspetta, nel dimenticatoio di persona, sei anche simpatica, anche perché abbiamo in comune l'amore per Israele, quindi ecco, non dirlo per favore, perché rischi di creare qualche danno. No, rischi di creare qualche danno all'autorevolezza e al brand dello Stato di Israele. Non credo proprio perché Israele non è come voi, ecco. Ma io non ho capito una cosa, ma perché adesso pensi di andare in carcere? Cioè, che è successo? Veramente perché pensi... mi hanno allora ho omesso di comunicare la variazione di residenza di mio figlio. Sì. La pena per l'omissione di variazione di cos'è è da 1 a 3 anni. Per i prediti di cittadinanza, vabbè, dici tu. Per i prediti di cittadinanza. Dunque te l'hanno tolto. La condizionale con i precedenti che ho non posso averla. E dunque io non ho capito bene. Quando è l'ultimo assegno del reddito di cittadinanza che hai preso? A gennaio. Dunque tu a febbraio non lo prenderai? Non lo prendo, quindi ho 7 mesi di affitto arretrato, 2 anni di condominio. Io in questi 7-8 mesi nel quale ho percepito sono riuscito a pagare, a fare la spesa, Ma posso dire, ragazzi, ma una scusa, cosa? Crociani, con tutte le case che hai, perché non fai un gesto, visto che ti piace? Io non ho case da affittare, le affitta case. Mia madre. Portatelo. Le affitta mia madre. Però io posso dirti, portatelo a casa tua. Posso dire che non mi chiedi prestazioni sessuali. No, perché io no, io non è possibile. No, Massimo Parenza, perché ormai sono impegnato con Giletti. Però scusa, come si diceva con gli immigrati, portatelo a casa tua. Però posso dirvi una cosa. Allora, ieri si è scoperto che il reddito di cittadinanza ce l'aveva un mafioso, ce l'aveva un signore che era un boss della mafia. Ma sai quanta gente l'ha preso così? Ma anche tuoi ex colleghi, chiamiamoli così, ex terroristi, immagino, lo sai pure te. Ma non credo che l'abbiano preso senza motivo. Ora io dire veramente, cioè Raimondo Etro, io ero contrario e sono anche contrario al fatto che uno possa prendere reddito di cittadinanza dopo quello che ha fatto. Però tolta questa cosa qua, è veramente una persona indigente che ha bisogno di reddito di cittadinanza rispetto ad altri che invece hanno, no, lavorano in nero, eccetera, avesse fatto a meno di partecipare a delle stragi, magari avrebbe avuto una professione diversa. Okay, chi lo sa? Quel Gottardo. Sì, Gottardo. Sono io, quello che non ha paura di te. Gottardo, ti giuro, quella sera quando ci siamo visti, ti sei cagato un po' addosso. Ti sei un po' cagato addosso. Figurati. Tutti i leoni del giorno dopo. Sai che c'è? Leoni per cosa sei andato in carcere? Etro, per cosa sei andato in carcere? Quanti morti hai sulla coscienza, Etro? Che tu dici a me, leone da tastiera, mentre stai tutto il giorno alla tastiera a parlare degli altri. Questo è vero, questo è vero. Veramente mi fai certo, ma io ho la coscienza pulita, caro mio. Sì, io non ho causato la morte di nessuno, bravo, a differenza tua. Io dormo la notte perché non ho dei servitori dello Stato sulla coscienza. Anch'io dormo. È spregevole che quello Stato che tu hai combattuto ti mantenga. È spregevole, e non c'è un cazzo da ridere sui morti. Posso dire una cosa, Raimondo? Non c'è nulla da ridere sui morti. Aspetta un attimo, tu hai detto non sono comunista, giusto? Sì, esatto. Cioè tu li odi i comunisti? Certo. Cioè il comunismo lo disprezzi? Certo. Lo consideri praticamente peggio del fascismo? Ma è uguale, è allo stesso livello, e non sono io. È stata la Santanchè che mi ha chiamato compagno etero, amico dei comunisti e altro, ma io non sono da 40 anni, quindi voglio dire, è una situazione veramente caricaturale. Tra l'altro tu sei anche contro... La tua è caricaturale, che eri delle brigate rosse, adesso odi i comunisti. Senti, è inutile che fai ironia, assassino, senti, dimmi assassino, Gottarda, dimmi assassino, con le mani sporche di sangue, dimmi assassino, dimmi sporco del sangue dei servitori dello Stato. Ma sei proprio gottardina. Fai l'ironia. Quelli che hai causato la morte non possono più farla quell'ironia lì. Ma ti sei messo il pannolone? E tu, per esempio, sei anche contro i clandestini che entrano in Italia? Io sono per i porti chiusi, ma non perché vengono a rubarci il lavoro, perché i clandestini che arrivano non è che vengono accolti per motivi umanitari, ma per arricchire le quote di rosse e i preti, tutto qua. Cioè, io invece sono per le carceri aperte per quelli come te. Tu dovresti stare in carcere, altro che porti chiusi. Carcere aperto per te, caro il mio. Ma c'è stato in carcere. La cosa interessante di Etro è che parla esattamente come Mario Giordano. Non dice cose così diverse. Faccio anche la vocina. Mi pare che sia uguale alla destra a quello che dice Salvini a Mario Giordano. È uguale. Non è che c'è grande differenza. Porti chiusi. Siamo tutti froci, come diceva Nino Manfredi. Ma sono contento che vi faccio divertire. Scusami un attimo, ma la Santanchè, adesso vogliamo chiedere scusa per questa cosa del cuscino, del buco del cuscino. Ma sto cazzo, t'ho detto Crociani, piuttosto mi ingroppo te e Giletti, se Giletti non ma è quelle le altre donne, ma quali... piuttosto che andare con la Santanchè o con la Boschi una che fa ancora vedere le mutande non peggiori la situazione, mutande non l'ha mai fatta vedere, ma che cazzo è una frega, è peggiori, ma scusa, ma anche la Boschi è la stessa cosa, manco col buco, ma è meglio un buco nel cuscino pure la Boschi, ma certo, ma questo, quello è tutto il contrario. Lei però di non si deve permettere di parlare così delle donne, lei non si deve permettere di parlare in questo questo modo delle donne. No, quella è andata in spiaggia, non è che ha fatto non delle si deve Parenza, permettere di parlare così delle donne. Considero, aspetta che sto scolando le patatine fritte, se mi so no, ma non perché... deve parlare in questo modo delle donne. Ma saranno cazzi miei. È un linguaggio schifoso che lei utilizza. Va bene, sì, è un linguaggio lei, schifoso. Adesso mi dai del lei. Sì, usa un linguaggio schifoso. Preferirei fare un'orgia con Parenza, troppo, con Gottarda e con Cruciana piuttosto che anche solo dare la mano alla Santanchè o alla quell'altra, la Boschi, me sono... È un linguaggio schifoso il suo. Va bene, a posto. Ma cosa sono per te? Non ho capito. Sono delle donne? Non sono donne, sono delle esibizioniste. Non sono politica, Etro. Etro non è un esibizionista, invece. Sei un brigatista da talk show. Sei un brigatista come da talk show. Che non sei un giornalista, sei un giornalaio. Con la piccola differenza che non ho mai ucciso nessuno. Piccola differenza. Non è detto di uccidere nessuno. È un aggravante. È un aggravante perché con tutte le stronzate che spari, tu ammazzi l'intelligenza quotidianamente. Però tu scusami. Quell'altro Pinocchio di Gottardo. E poi dopo fate l'amore con Cruciani la sera. Dici, quanto abbiamo guadagnato stasera sparando cazzate. Io invece apprezzo la tua, perché io odio tutto quello che hai fatto, disprezzo tutto quello che hai fatto. Però in qualche modo, non so perché, cari Parenzo, caro Gottardo, caro perché Parenzo, ti piacciono i matti? No, mi piace una persona che dice apertamente: io ho le pezze al culo e fra poco non potrò nemmeno mangiare, che è così, giusto? Ma è vero che non potrai manco mangiare? Cruciani? No, questo è vero, cioè io guarda, ho una settimana di autonomia. Dopodiché l'alternativa è la scatola di gassone alla stazione Termini. Quindi... Fai una rapina e torna in carcere. Sì, torna in carcere. Non ho bisogno, ma nessuno che deve devi dire tu? Di fame, senti, Crocetto, ma che mi devi dire tu quello che devo fare io? Senti, stronzetto, andrò in carcere. Perché questa è una bella notizia. Senti, questa è una bellissima notizia. Perché in questi otto mesi, Crocetto, mi stai a sentire? In questi otto? Allora, in questi otto mesi ho percepito 780 euro al mese. In carcere costerò allo Stato 124 euro al giorno, quindi bene. Invece di 780 molto volentieri. Appunto, dietro alle sbarre, assassino, dietro alle sbarre, assassino. No, ma non si può essere contento se uno ha già fatto. Saranno contenti i parenti delle vittime. Non, i parenti delle vittime saranno contenti. Ha già pagato. Per quello, ma no, per quello ha già pagato. Fai parlare i parenti delle vittime, comunque il testa di cazzo. No, ma quello ha già pagato. Non gli puoi dire testa di cazzo. Non puoi dire testa di cazzo a Potito Perugini. Perché Potito Perugini. Io ho detto, è uno stronzo perché lui ha detto che sono uno psicopatico. Beh, ho capito, ma non puoi dire testa di cazzo a Potito Perugini, che è uno che ha avuto un parente ammazzato anni fa e da anni combatte. Vedi chi chiama Cruciani. Ma che vuol dire? Ci sta giostrando sopra. Se io avessi saputo che c'era questo pezzo di merda in trasmissione, non avrei partecipato a questa trasmissione. Non lo sapevo. Quello che ha detto sulle vittime è terribile, però oggettivamente ha ragione Gottardo. Etro, è vero. Etro, sei un pezzo di merda. Ma vai a fare in culo. Ma quello che hai detto di Potito Perugini è una vergogna. Devi chiedere scusa a Potito Perugini. Chiedi scusa però al Potito Perugini, perché devi... Vabbè, ragazzi, ha avuto un parente ammazzato, amico mio. Ma stai zitto tu. Ma allora ci faccio parlare. Guarda, te lo chiamo. Ma chiamalo come ti pare. Fermo là. Sto qua, e chi si muove? C'è un cazzo da fare. Pronto? Potito? Sì, buonasera, chi parla? Sono Cruciani. Ah, buonasera. Senti, no, qui abbiamo Etro che ti ha dato prima della testa di cazzo. Allora ti volevo chiamare subito perché non mi va di lasciare le cose così appese. Lui ha detto che tu sei un esibizionista. Gli vuoi rispondere? Sta qui con noi. Salutatevi se volete, oppure vi disprezzate. Buonasera, forse è meglio evitare. Perché tu gli hai dato della testa di cazzo prima? Perché ha fatto la sparata in televisione, in diretta. Che mi ha adesso con l'accento, posso rifare l'accento pugliese che fa? Vorrei invitare il brigatista Etro a un colloquio di lavoro per la multinazionale con la quale collaboro. Ecco. Che c'è di male? Scusa, dove ci siamo? No, ci siamo visti una volta a cena. Una cena, una birra, una cosa. Sono venuto a prenderla a casa, sì. O no? Certo. Siamo stati a cena o no? No, a cena abbiamo bevuto una birra. Ma allora perché gli dai della testa di cazzo? Non ho capito. No, perché dopodiché è sparito. Ha fatto la sparata per far vedere che lui faceva il buonista. Dopodiché è vero che lei, è vero che lei, quando l'ho richiamata più volte, mi ha detto di avere un problema di salute e di essere, di avere una polmonite in corso. Ma per piacere, ma per piacere. Cioè, ti volevo offrire... Io ho tutto documentato. Io ti volevo offrire un lavoro. Aspetta un attimo, ti volevo offrire un lavoro e l'hai rifiutato. Sono una persona seria, sì, e non mi permetto di andare oltre perché ho tutta la documentazione dei messaggi che lei mi ha mandato dicendomi che non stava bene. Lei mi ha ignorato completamente perché il suo intento è fare l'esibizionista per diventare candidato nella Lega. Per io fare sarò carriera candidato. Politica io, lei io. Non è un familiare delle vittime, lei è un buffone. A me lei non insegna proprio un cazzo. Ma va io bene. Infatti non ti devo proprio va insegnare bene. Niente a perché sei un pagliaccio. Vabbè, ma è legittimo fare politica, ma è legittimo fare politica. Dai, altra terza querela. Tu sei una nullità, che cosa devo querelare? Sei una nullità. Fermo, non mi sembra che ci sia possibilità di venire a un incontro tra i due. Ciao Potito, ciao. La zanzara. Dove c'è Adriano che si è addormentato sul tavolo completamente ubriaco e questa puttana gli fotografa il cazzo che è in tiro in questo caso. Senta, lei lo sa dire pene o sa dire solo... Grande Max. Ciao Rocco. In vita l'amichetto tuo lì davanti, si sceglie la donna, da te in radio, voglio vedere se hai coglioni, si sceglie la donna, a me mi metti una vecchia di 90 anni senza denti con la dentiera e me la inculo e mi inculo pure lui, me lo inculo insieme alla vecchietta. Grande Max. Ciao Rocco. Lo diciamo qui, fuori dal coro, perché altrimenti non ve lo dicono. Ma sulla Santanchè si ricorda cosa ha detto? Certo. Ecco che lo vuole ripetere. Perché ha detto che meglio piuttosto che andare con lei farei un buco sul cuscino. Crocialenzo. Mamma mia ragazzi, che battaglia, e devo dire che Gottardo ha detto una cosa incredibile. Veramente. Gottardo ha detto una cosa incredibile. Cosa ho detto? Che cosa se io detto? Se tu avessi saputo prima che lui che no di una telefonata dietro non saresti venuto. Beh, ma non certo, ti ma chiaro, non dire cioè, cazzate. Perché devo parlare con un assassino? Ma hai invitato i peggio mostri, hai invitato i mostri, sì, vanno invitati sempre i mostri. Mai, ma gli figurati, assassini, gli assassini mai, sono il top con cui parlare. Perché non si diventa ex assassini, la vittima non resuscita. Le persone che, di cui Etro ha causato la morte, certo, rimangono morte anche quando lui è uscito dalla galera. Anche quando lui è uscito dalla galera, dovrebbe rimanere a vita in galera. Adesso ti fai tanto. Inviti anche tu i nazisti, ti fai tanti problemi a invitare Etro, non dire cazzate, dai su. Certo, dai. I nazisti che non hanno ucciso persone. E uno che si proclama nazista in teoria fa l'apologia di uno che ha sterminato un milione di persone, dai su. Uno è un poveretto se Vabbè, è un nazista. Ragazzi, per switchare un attimo, vi voglio leggere una roba, non so. Vi voglio leggere una cosa di uno scrittore molto interessante. Perché poi, ragazzi, il sesso è ovunque, in tutti i romanzi, in tutti i racconti, sì, nei romanzi, certo. Ovunque, certo. Non solo nei romanzi, ma anche nei racconti, magari nella di episodi. Bibbia. Pensa nella Bibbia scopano, cioè, come delle furie nella Bibbia. Beh, adesso c'è anche la sodomia. Questa espressione, però, beh, se vuoi, anche sì, la sodomia. Sì, assolutamente. L'incesto, sì, la sodomia, le orge. Basti pensare a quello che dice il mitologico professor Biglino. Professor Biglino dice delle cose incredibili. Che professor Biglino, come ma tu non sai nulla. Ma io non ce la faccio, scusa. Longoni, diglielo tu, ti prego. Longoni, prendi in mano il microfono un attimo. Prendi la cosa in mano. David, Biglino l'abbiamo già intervistato un paio di volte. È un esperto di Bibbia. Scusa se dimentico. La sua teoria, è vero, è che la Bibbia tradotta oggi nelle librerie non è correttamente tradotta. Quindi la Bibbia non parla di Dio. Sì. Il solito. Coglione, e dai, in grande sintesi, dato ho che capito. Giuseppe apprezza la sintesi, la Bibbia parla di le peggiori porcherie. Per esempio, puoi suggerire alla regia, caro Longoni, di mandare allora in onda vediamo. Questo piccolo pezzo di Biglino in cui parla addirittura che in testi extra biblici è consentito fare sesso con bambini di 3 anni, dai 3 anni in giù. Ma io non lo so, ma che non, schifo, ma, non lo, ma che schifo, ma per favore, ma è biglino, ma è biglino, ma non lo so, ma che vuol dire biglino, ma è biglino, è biglino, è un coglione, non è biglino, non puoi dire semplicemente è biglino, è un... C'è anche un Adamo che si accoppiava con animali, se volete, se vi interessa. Mandatemi Adamo, poi domani mandiamo il resto. Partiamo con Adamo, dai. Poi nei libri, nei testi pubblicati solo dagli ebrei, nella casa editrice ebraica, dove scrivono solo rabbini, c'è scritto chiaramente nelle note, quindi l'ho fatto vedere con grande soddisfazione nelle conferenze, che prima di avere Eva, Adamo si univa con ogni sorta di animali. Scusa, ma questo corrisponde alla verità, Parenzo, tu che sei un esperto di queste cose? Ma non diciamo... Biglino è considerato... Non discuto di Bibbia... Non discuto di Bibbia con questo personaggio. Non discuto, scusami, come non discuto di storia con quei quattro sciamannati che chiama. Ma è uno molto apprezzato. Non mi metto a discutere. Comunque può essere che i primi giorni della creazione, siccome non c'erano le donne, c'era una sorta, allora non è vero. Il che? Allora no, il che spiegherebbe perché si chiama pecorina, quindi. Ma no, adesso questo non c'entra un cazzo. Ecco, Gottardo, ecco, adesso questo oggettivamente forse è stato perfetto fino adesso. Adesso forse il passaggio successivo è un po' più pericoloso. Insomma, qual è quello delle bambine di 3 anni? Sì, quello è un po' più delicato. Ma vogliamo fare incazzare Parenzo? Vogliamo fare incazzare Parenzo? Al popolo di Israele era consentito fare. Vogliamo fare incazzare Parenzo? Se lo metti in onda, vado via prima. Ma non metti in onda. Cosa detto? Adesso prima lo devo, fatemelo sentire. Fatemelo sentire bene dopo. Non adesso, dopo. Allora, vi stavo leggendo un pezzo di Enrico Franceschini. In certi rapporti sadomasochisti portati agli estremi, il masochista accetta, anzi pretende, bravo la corte, il masochista accetta, anzi pretende, che la sua dominatrice gli imponga un voto di castità. Perciò si fa chiudere l'uccello in una gabbia con il lucchetto. Oh mamma. Così non può neanche farsi una sega. Mamma mia. Spetta la sua padrona a decidere quando si farà la prossima sborrata. Allora, ragazzi, la realtà, sapete che non amo questo termine, io comunque, Mamma mia. Ma è un libro di Enrico Franceschini, non un libro di Rocco Siffredi. Un libro del signor Franceschini, che è uno scrittore, ex giornalista o ancora giornalista, non lo so come si può definire, ma insomma, una persona che apprezzo molto anche. Per cui descrive, anche se credo in un romanzo, una realtà, dato che tu dovresti essere, caro Freccero, molto attaccato alla realtà. Cioè gli uomini che si fanno mettere una gabbietta nel pisello perché alla donna, alla moglie piace così. Piace così. Ma naturalmente sarebbe un'idea meravigliosa, naturalmente per Rai 1. Dai, bellissimo. Dai, cominciare a raccontare quel mondo della sessualità davvero. Dai, qui siamo ancora fermi al commissario Montalbano. E la TV dei preti, Rai 1. Poi c'è Terence Hill che fa il prete Don Matteo con la bicicletta. Dai. Ma cosa c'entra? Questo, cominciamo, scusa, naturalmente a raccontare il sesso nei suoi aspetti più estremi, naturalmente. Questo, cioè... Io ad esempio avevo proposto un format qualche settimana fa in cui c'era una sorta di sodomizzazione di Renzi. Sì, live, questo me lo ricordo. Hanno detto di no! Dai! Hanno detto di no! Però scusa, le gabbiette, cioè i piselli ingabbiati con lucchetto, eccetera, no? Che è una delle... Naturalmente stiamo ragionando su questo format, stiamo ragionando. È un format originale italiano, naturalmente. Sì, ho la messo gabbia, sì, la gabbia. I miei ragazzi, i miei scrittori, naturalmente di format al lavoro. Sì, e stiamo cercando intanto di costruire creativa, una grande serra creativa. Naturalmente, siccome c'è questa gabbia, allora subito ho pensato di far condurre il programma a Paragoni, naturalmente, che ha già condotto la gabbia, naturalmente. Sì, sì, sì. Con tutte e delle quindi potrebbe prof. Condurre anche quest'altre gabbiette, esattamente. Queste gabbiette sessuali, bellissimo sarebbe. Dai, ma chi con Paragoni che conduce? I soggetti, cioè lui che conduce, che magari inserisce lui manualmente le gabbiette nel pisello dei politici, potrebbe essere una buona idea. Naturalmente state entrando nella factory di Freccero, vedo che naturalmente che avete le sarebbero i politici, cioè, i politici Paragone che da... invece della gabbia fa le gabbiette, sì, le gabbiette con per le gabbiette per messe per i peni, nei pisselli, naturalmente, dei peni dei politici, naturalmente, sì. In prime time, però in prima serata, dai, dopo il TG1, bellissimo, facciamo il lancio del TG1, fa molto ascolto, il 23, il 24% lo facciamo, dai, il pisellino del politico nella gabbia, Paragone che conduce, facciamo scrivere il programma a Paolo Savona, dai che bello, dai che funziona. No, è incredibile. Allora, Alberto da Lucca, vai Alberto, è una roba pazzesca. Buonasera, io volevo parlare un attimo delle sardine, che non sono così farevolevole, però volevo dire una cosa. Non mi far abbassare il ritmo, non mi far abbassare l'adrenalina, dai, direbbe Parenzo. Io voglio solo dire che ormai ci sono due mondi, un mondo reale e un mondo virtuale. Voi conoscete bene il mondo reale, urlate, fate parlare tutti. E ci arrabbiamo tutti e tutti reagiscono. Le sardine facciamo hanno parlare pure gli ex terroristi. Esatto, esatto. E date parola, però fate parlare, fate incazzare, la gente si sfoga e si sfoga l'uno contro l'altro. Però quello che succede nel mondo virtuale, cioè su internet, su Facebook. Ma noi che cazzo ce ne frega del mondo virtuale? A te non te ne frega niente, però è un mondo che esiste. Sì, ce ne frega, nel senso che ogni tanto prendiamo delle cose e le rimettiamo così per ridere. Ma chi vive nel mondo virtuale è un coglione, posso dirti, un coglione totale chi vive nel mondo virtuale. Sono d'accordo. Semplicemente questo, perché però poi si possono prendere delle cose e utilizzarle. Tantissimi ormai vivono nel mondo virtuale. Sì, benissimo, sì. E alimentano delle cazzate, ma anche l'informazione, il giornalismo nel mondo virtuale. Vabbè, allora, ma che vuoi, Alberto? Dire che a parte questa piccola lezione che vorresti fare. Non è una lezione, io vorrei mettere l'attenzione che va regolamentato anche il mondo virtuale. Ma vai a fare il culo, Giulio da Salerno, ancora con sta cazzata, regolamentare il mondo virtuale. Ma vai a parlare in una conferenza. Giulio, cazzo ciao, ci frega ciao, noi. Ciao, ma non mi aggredire. Vai a lavorare con la Boldrini, dai. Cruciani? Sì, dimmi, ciao. Giulio, dimmi. Non mi aggredire, ti prego. Ma perché ti dovrei aggredire? Però queste persone che intervisti, questi delinquenti, questi camorristi, ma perché li fate, li inviti? Perché li fate telefonare? Dove stanno i camorristi? Cioè, magari invitare un camorrista qua tutta la vita. E chi è quello che ha chiamato prima? Quello che quello era un ex terrorista, un po' diverso. È un ex brigatista. È un ex brigatista o uno che ha partecipato a omicidi, anche se non ha sparato materialmente, però faceva il bassista. Cruciani, scusami, come si permette di offendere Gottarda, Parenza, Cruciani? Ma quello è un suo gioco, chi se ne frega. Quello è il meno. Quello è il meno. Rispetto a quello che ha detto, quello è il meno. Ma quello è un gioco. Dice Frocio, questa trasmissione sta andando un po' oltre, però. Ma oltre che abbiamo intervistato un ex terrorista che è uno che parla, innanzitutto, non come quegli altri che sorci non parlano più. Questo dice di ogni sui politici. Vabbè. E che cosa vuoi? Lo intervistiamo? Mica è che poi mi stupisco del fatto che Parenzo e Gottardo, che sono due che parlano delle carceri, delle persone da recuperare, invece quello va dimenticato. Bisogna che cada nell'oblio. Responsabile di vari omicidi? No, responsabile di vari omicidi dovrebbe vergognarsi in carcere. Dovrebbe vergognarsi dietro le sbarre. Adesso in carcere Antonio da Catania, fatemi sentire Antonio da Catania. Pronto, ciao. Dimmi, dai, dimmi. E allora, purtroppo, allora, intanto piccola storia della vulva, nasce già dal XV secolo che si tagliavano, si rasavano perché per i pidocchi. Poi la sloganata il porno negli anni 90 e poi nel 2000 la sloganata Victoria Beckham dichiarandola a tutto il mondo. Non ho capito un cazzo, scusami. Mi stava facendo la piccola storia della vulva depilata. La vulva rasata. Purtroppo va di moda adesso, Antonio, ma è un argomento sempiterno in questa trasmissione, scusate l'espressione sempiterno, è un argomento più volte trattato. Non c'è più nulla da dire su questo argomento. Sì, la corte, sì, che rompicoglioni, è diventato rompicazzo come Parenzo. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Lo diciamo qui, fuori dal coro, perché altrimenti non ve lo dicono.